va bene. La luna è una virgola in cielo che brilla maligna, un soffio di luce su chi non vuole dormire. È l'ora di chiudere gli occhi alla sera, di prendersi tempo per sé. C'è un bimbo che manda un adulto a dormire, la storia comincia così. C'era una volta un drago, case di marzapane, specchio delle mie brame, parlami del mio bene. C'era una volta un mago, specchio delle mie brame, parlami del mio bene, che m'ha rubato il cuore. Luna di notte, l'estate vicina, verrà profumata di grano. C'è un grillo che canta per una falena, una canzone d'amor. La storia è venuta in sonno stasera, non me la voglio scordare. In fondo non sono che poche parole, la storia comincia così. ciao, ciao. Il disco è finito e chissà se a te sarà piaciuto oppure se lo butterai o lo regalerai a chi un po' antipatico ti sta. Ciao, ciao, se non te ne sei accorto questa è la Ghost Track, la sorpresa che ti fanno i Folkabest per dirti che tu puoi riascoltarlo quante volte vuoi. Se l'hai masterizzato, ai, all'inferno finirai. Queste cose non si fanno mai. Ma se comprato tu lo hai, un bacetto tu avrai e felicità. E buone cose in famiglia.